c'è un problema. Oh già, ma è migliore in FM. Come ti sembra? Ma tu no? Sì. Ma se non mi capisco la vulca, se il prezzo fornata di vele. Io? Di quelle, di quelle forno, forno, forno, hai che cosa bella, mamma mia, Antonio, dai, dammi di nuovo il telefono. Cerco di fare il giro, ma poi mi coinvolgono, mi prendono la lingua, mi fregano sempre. Certo, buona giornata. Se riende lo comprendi a galera. bene, lo giuro, tu mi sei piaciuto di un cabarubaro, eccetera, eccetera. No, ma grazie. Ora qua giù, no? Non si può capire. Kappa, ma di che sta bene? Papà. Non vuole entrare. Avanti, per papà. Ma non rispondo. Così, così. smontato quella lì, l'aveva tolta dal tetto e l'aveva messa a parte. questa qua una pulizia così veloce da come ci avevamo fatto, però ci aveva tenuto l'apparecchio. L'apparecchio ci avevamo in una 48 che portava in scena quando avevamo la 27 ancora nelle ambulanze. Non esiste più quella 48. Non so, però si dice sì, c'è quello lì, è il microfono a cornetta, quello che usava lui. Sede non c'è, sicuramente l'avranno trovato la moglie, sede non c'è. E vabbè, comunque, ce n'è anche un'altra di antenne, c'è una frusta nera mi pare, c'è una frusta nera in sede, adesso lo chiedo a Agostino se me la posso prendere, me la pido. Intanto per la 27 loro non ne usano l'ambulanza, quindi una frusta nera pendina, non va nuova. Tanto la roba inoffrata, se ti la tu magari in qualche maniera attacchi, in qualche parte la usi così. Sì, la base magnetica c'è tutto quanto, capito? Tutto completo. Sì, tutto quanto c'è l'attacco, la base magnetica attaccata. Infatti, come l'ho vista, pensa che della 27, lo sento rosso, sì, della 27, ci avrei tutta caricata, è quella tutta caricata, lunga e caricata. Io ma già le la chiedo, però non l'ho mandato l'occhio da lui, tanto mi ci impide, tanto cosa ne va, nel 27 non li usano. Il giorno che io ero alla riunione, ero detto al presidente che non potevo fare chissà figura, e mi ha detto ma le ritiriamo in questi giorni, ci mando qualcuno le ritiro, ricordami l'indirizzo, che ha detto tra 30 volte, gli ho detto. Io ho detto mandare in futuro perché l'ha fatto mio collega, ha detto già così e così, devo andare a ritirarle, me lo dici che via è? E gli ho detto sì, gli ho detto la via, ho detto mai più vuoi fare favori così, mai più, ci ho fatto la figura di cavolo, basta, mi ha detto vabbè sempre lo stesso, ho detto sei andato, non l'ho fatto male, ma sei andato, l'ha fatto anche con me in altri occasioni, quindi e adesso si arrangia lui. Che se devo raccontare una cosa, da questa la fai di inibibile, così tanto tempo, cioè, non è bello, dai. Tu me l'hai fatto qualche zio, lì non mi fa che si travate, me l'ha fatto a me per piacere, capito? Lui fa a lui, la fa la sua televisione, gli apparecchi stereo, tutta roba così. I soldi li fa da lì, non li faccio tra quattro appariti. Però me l'ha fatto per cortesia, perché conosce a me, ha fatto quella figura di cose, di cavolaccio. Una brutta figura, cioè, fatto. Beh, da non esiste. Cioè, tu ti impegni per fare le cose, poi non le ritiro. Tu pensa che figura ci fai, cioè, che se la fatti fare da voi, anche impegnandosi lui. Stavo per fare una cosa, stavo per andare a ritirarla io e portarmela a casa, cioè, quando mi dava di là mi aveva data. Ma qua non vorrei avere più impegni del genere, già. Tanto tu conosci la gente, vuoi fare del bene e poi. No, è troppo brutto così già. E anche sai perché lo fai, per mandare avanti associazione, perché per far sì che le cose vadano bene avanti, comunque stiamo lavorando, stiamo facendo trasporti, ogni giorno ci sono servizi, stiamo andando bene, là. Infatti l'altro giorno, quando ieri notte, si ho sentito mio collega e mi ha detto che si stanno facendo un po' di servizi al giorno, 4, 5 per il momento, al giorno, ieri aveva avevano già 4 prenotati, stanno facendo servizi di missione a domicilio, tutti i servizi qua, stanno andando abbastanza bene all'inizio, dice che li stanno chiamando, quindi se sanno che ci siamo, ci sta contattando anche l'ospedale, però non con le... prima avevamo la convenzione, non con la convenzione, ma solo da fare trasporti da ospedale a casa, a domicilio. È una situazione molto difficile, è una situazione perché a cadere in basso ci si mette poco, ma tirarsi su è difficile, ma pian pianino che afferra tutto. Ci arriviamo sulla fuddita. Te l'ho detto, io te l'ho spiegato come noi, se vogliamo, l'intervento di urgenza li possiamo fare ugualmente, non dipendiamo dal 118, anzi noi per regola 118 non ne potremmo fare, perché noi non siamo un'associazione, ma siamo un corpo paramilitare. Se non corpo paramilitare non si può fare 118, dovremmo fare un'associazione a parte, tipo come c'è Austini, che c'è la Croce Ottagona, che sarebbe sempre del CISO, però è un'associazione all'interno del CISO, capito? Come Croce Ottagona gli hanno dato la convenzione, però loro stanno facendo 118 come Croce Ottagona, però noi se non facciamo questo tipo di associazione all'interno del CISO non ce ne danno. Siccome noi vogliamo rimanere CISO, non ci interessa fare altre associazioni. Come CISO possiamo lavorare e fare urgenze e fare tutto qua, ma non ci va che allo stesso tempo discriminiamo gli altri, le altre associazioni e cose. Vogliamo essere uguali agli altri e stiamo aspettando che ci diano questo foglio di via per partire con 118. Se noi ci danno il foglio di via, c'è la gente che è professionale, non è gente che è all'arte moca, capito? C'è la gente che ha fatto corsi, che ha sempre lavorato in circhi stradali e varie cose. E tra l'altro ci tengo a dirlo, siamo stati l'unica associazione che su 40 volontari, 20 sono partiti per il terremoto. Ho capito io, se non mi sbaglio, sono cose che ho sentito dire, per fare 118, la buona non deve superare 5 anni, da quanto ho capito io. Quando per dire un ambulanza c'ha più di 5 anni, a parte che 5 anni nemmeno le teniamo, le cambiamo sempre prima, ma adesso un po' la situazione è un po' così, le ambulanze sono nuove, le nostre non sono mica di quelle vecchie. Potrebbe fare di tutto, però preferire, ho visto molte associazioni che preferiscono più Ducati come ambulanze. Ducati sono macchine che vanno bene, fidano, perché fidano, camminano bene, cosa che magari Mercedes tiene che cammina di meno, però diciamo che ha più resistenza come motore magari. Noi abbiamo avuto anche il Mercedes, cammina meno, però nota dice più resistente. Il Renault è stata una grande fregatura da quando l'abbiamo comprato, ha avuto problemi al cambio, alla frizione, mille problemi di anche di coso, di impianto elettrico. L'abbiamo comprata nuova, tra parentesi, nuova. Purtroppo, ma per cui sarà a vedere questa resistenza, sarà tanto da vedere, io non è che mi intendo, però dicono che i Ducati sono quelli che fanno i giusti. Esatto. Vero, io non me ne intendo, però dicono che il Ducato è quello che va meglio di tutti. Va bene come velocità di strada, va bene come velocità, no? E diciamo che c'è spazio per lavorare dentro tutto quanto, ma che non è vero, però Renault ha avuto questi problemi, poi se la nostra in particolare, questo non lo so, però l'abbiamo fatto un po' di volte per la frizione, 3 volte che partiva sempre la frizione, poi dopo pochi mesi. Non diceva niente allora. Loro dicevano che erano volontari, magari cambiavano piede all'altro. Se si vuole volontari li guidano tutti e due le ambulanze, se no sarebbe stata anche l'altra così. Infatti un tratto lo guida tutti quanti come guidano il Renault, quando non c'è un tratto guidano il Renault e viceversa. Per cui tutti prendono le stesse macchine. E dice, boh, allora questa figlia che sta vita magari è uscita male dalla casa, sta pagando mai tu, la frazione da voi due gli dono di pace. Allora qua siamo in difetto per qualche cosa. Sicuramente è una macchina pesante e per quello che c'è la pressione, perché no, magari è un furgone troppo pesante in base al motore che non rende bene, magari il motore rende ma va in sottoscorso, capito? No, non va bene. C'è un 2008 motore, quello di Vicente. Tutti i furgoni allora dovrebbero essere quelli là, quelli che caricano la roba, che tipo il mio, che si carica le 4 pedane, si deve bruciare la frizione ogni giorno. Non serve per un difetto di fabbrica, probabilmente, che ci fosse solo sul nostro, che se fosse su tanti, questo non lo so. Però a noi ci ha fatto questo determinato difetto, tanto è vero che poi abbiamo deciso di passarlo. Adesso vediamo un pochettino come va la situazione, ma si sta andando avanti, si sta ricomponendo, ci sono molte ragazze nuove, quando sono andato a riunione ho trovato molta gente nuova, quindi la cosa sta andando avanti. Allora mi iscrivo. Iscriviti, Natale, i problemi non ve ne so. Problemi non ce ne stanno. Se ci sono tutte queste ragazze nuove bisogna frequentare. Tu frequenta, bisogna vedere se ci attaccano a te. Allora vedi che c'ho il difetto della confitta io, gatta, mamma mia. Vabbè che tu sei Grisù, il draghetto magico. Aspetta un attimo, ma tutti a casa piccolo, un attimino. Gara. Interessante. A me solo le femmine mi interessano, la verità si dica. Così è. Ma c'è molta gente nuova a parte gli scherzi. Adesso andiamo a riprendere dalla grande. Come abbiamo riaperto, sta cominciando a chiamare la gente, il curato di te che devo spedare. E meglio così allora. Andava. Comunque. interessante. Sì. Adesso come mi sento meglio, comincio già a farmi i turni, mi faccio proprio i turni dalle 8 per dire a mezzanotte, oppure la domenica mattina, oppure sabato notte che sto facendo i turni. Ecca, magari, a giocare. Va bene. Io se me ne vado da lì non ci vado più da nessuna parte, è finito. Me ne ero già andata, sono stato ricontattata e questo mi ha fatto piacere. E beh, ci mancherebbe. Mi ha fatto piacere perché vuol dire ci tenevano a vermi. Ci sono ritornato perché se no fosse stato per me io avevo già finito. Sì, lo so. E adesso c'è un'altra storia che bisogna risolvere, quando mi portano la divisione comincia a fare il servizio, adesso qua le parlo chiaro e tondo a signor capogruppo, quando mi mettete la divisione io comincio a fare il servizio, se no non ne posso più. Sì, infatti. No, perché la mia divisione è arrivata, siccome era un periodo che non ci stavo andando, l'hanno dato un'arma, capito? Che l'aveva la mia strada. Sono andato e mi ha detto guarda che ti ho buscato anche la divisa, questa e quell'altra. Poi sono costretto a rivedere la divisa, ma l'ho data già a Luciano perché tu stavi venendo, ho detto oh cazzo, mi piace il discorso. Poi l'ho detto a Luciano, tu hai pigliato la divisa che ti rispettava a me. Cioè sono stato mesi e mesi a Cittadina, mi sei giunto tu da quei diritti e mi ha detto no, no. E va meglio te la presta, tanto che Fabrizio, no, non è che se le prestai a me, non mi piace pure la roba di là, la voglio limpia, che mia moglie me la lava, me la dà pulita, stirata e fatta. E infatti, se manca a me, io la domani che viene da dove la divisa me la chiudo un paradigma io, addirittura, ma non più me la roba di là, quando era brutta me la lavavo e mi punivo l'altra pulita, inteso. Anche perché io ci andavo un giorno, capito? Ma io non lo posso fare, Natalia, no, se sono così buono attaccato. Non è che posso comprare una divisa diversa, però se sono tutte quante uguali, le divise così buono attaccato, le mostrine in quel punto, eccetera, eccetera, tutto quanto. Dobbiamo essere tutti uguali, praticamente a Roma, in tutto il mondo siamo uguali, capito? Io non so, io mi avevo preso i pantaloni, il golfo, ma l'ho preso, ho comprato da me proprio. Perché se mi si sporcava almeno c'avevo quella di ricambio, capitola, perché io andavo ogni giorno lì. E quindi una di ricambio non la volevo avere, ma l'avevo comprata io con i soldi miei. Infatti c'ho ancora un pantalone perché il golfo. Ce l'ho buttato, chi mi fruttura. Dal 118 ce l'ho buttato. C'era quello del 118. Ce l'ho buttato, se ne avevo un altro, blu, e ce l'ho buttato lo stesso. Mi è rimasto solo un paio di pantaloni e la cintola, mi sembra. E perché ce l'hai buttata la carina? Ma che intanto non voglio andare in giù, esaminare tutti chi se la roba mia. Se te lo mettevi, fai in campagna, ma fa travaglio e così del genere, vabbè, se ti dà fino a fino. Vabbè, comunque io la magliettina quando me ne sono andato me l'ho trovata perché le ho pagate io, le magliette, gli stemmi, il basco, tutta la roba che c'avevo in moglie, io te l'ho mandata, capito? E la divisa solo gli hai mandato, quella che stavano solo. Quella che mi hanno fatto firmare quando l'ho presa, mi hanno fatto firmare come me la stavano dando perché era in prestito, che era sin quando io stavo lì e basta, poi io dovevo restituirlo e me lo fanno firmare come qui. Infatti, anda bene Meda, dammela, adesso me la chiudo al video però perché stavo mangiando e mi stavo ascoltando poco fa. Non me ne sono accorto, erano già le 10 e 12 quando stavo chiudendo. Dimmi tu, né mangiato, né filato vasiglia né nuda, perché ero impegnato facendomi la storia dell'apparato. E vabbè. E dopo se mangi tanto ti giudici anche male, ma fatto quello che dopo ti frigo che non ti giudici bene. Infatti ho aspettato un po', proprio per quello. Stavo ascoltando. Aspirina. Domani mi modifico l'affare delle antenne e via. E sono a danno. Cosa state di modificare da me? Così ne posso usare anche l'altro, in altre frequenze e tutto. Questo me lo uso qua. Andare. Vabbè, sì. E che cosa rimetti a questo qua? Ne metti la mano? Rimetto la mano, nell'altro ci metto il foro, così posso ascoltare. Se voi lo ascolto anche qua, se non lo posso usare, capito? Invece di questa maniera con un commutatore ne puoi usare uno alla volta. Ecco, li metti attacchi di riti, di là. E all'ombra. Vabbè, Natali, buon lavoro allora per domani. Io pensavo che sci, invece dei vari si travati. Sì, si ne aggiungiamo, se no lo porto domani sera. Non c'è problema, se domani mattina dobbiamo uscire, usciamo. Ciao. Così andiamo a fare dei televalvoraggi, ma sci, a vedere se vi dà. Che fa? Ma non mi sembra che non è a voi, No. Ma è falso se li tratta loro, li trattano loro. Ma non è detto che abbia effetti un ricambio, capito la cosa del discorso? Perché mi sembra che le avevo già chiesto, neanche Fusaro non ne aveva, né mi richiude, sono andato e non ne aveva. Se non è che ce le ha coso, come cavolo si chiama quell'altro? Grassi. Sì. Grassi adesso si è trasferito, però mi hanno detto che è vicino a Portobello, prima della curva di Portobello lì. E non si è trasferito proprio Grassi, si sono messi in società quello che lavorava da Grassi e quello che c'era le cocce, c'era presente. Ah, e ho capito lo zio che lavorano con i due. Bisognerebbe andare a farci un salto. Ma maledizione alla tosse. Vediamo un po' anche dove, che magari mi serve qualcosa e vado direttamente e me la compro. Speriamo che non si abbia portato quello che aveva le cocce, che era caro di fuoco. Chi su era caro di fuoco? Ti butti a chiacchiare, se vai a pagare un viaggio su di mezzo, ma stai scherzando, ma tu non lo sai che io pago anche un viaggio, se vai un viaggio lo paghi, io ti compro un baracchino, a te te ne arrivano 10 in una scatola, e tu fai il contatto di tono, ma lo fai pagare su di baracchino, ma stai scherzando. Io posso capire che devo mettere un euro in più, un euro su di baracchino, ok, ci sto anche su così scorso lì, però cavolo, non mi puoi mettere, paghi 10 euro e poi 10 euro su una baracchino, 10 euro sull'altro. Ah, c'è il 200% di guadagno. Mio. Sono contento che lui piace non ne pagava, perché poi io non sono altro. La Grassi mi ha detto Grassi, che mi comprava da lui a parare. Infatti, vedi bene quanto mi guadagnava, Edi. Già avevi via roba Grassi, e più ci trovava anche lui. E altro sgobo ti metteva anche il trasporto. A me da trattare il sgobo di sia. Allora. La Grassi, il trasporto non lo pagava, se lo pagava Grassi e a lui mi faceva pagare il trasporto complessivo, mi ricca sugli affari. Non gliene faceva pagare, certo, anzi lui siccome li voleva rivendere li prendeva anche più a buon prezzo, capito? Perché lui c'aveva lo sconto, giustamente. Allora, che li prendeva con lo sconto, le antenne, tutto quanto da riprendere. Infatti, vedi bene. Io siamo attaccati di tutto, sto piangendo. Ma gli ho fatto un microfono, ragazzi. Ho preso una batteria, la 9 volts. E mi ha fatto pagare pure la batteria, gli ho detto. Non c'era gli altri posti, mai. Si è visto che ti fanno fare la batteria. Comprando il microfono nuovo, non ne bevi più 5. E ha fatto pagare la batteria a parte. Mai. Ho detto, con tutta la roba che vi compro, gli ho detto, i baracchini, questo e quell'altro, gli ho mandato un sacco di gente, perché lui, io sono stato uno dei primi, che sono andato lì a comprare, gli ho mandato un bel di gente, ma un bel, un bel di gente che ci manda dai, e non ha avuto mai cosa di dire, ti regalo una batteria, quindi ho mangiato, ho fatto le palle e non sono più tornato. neanche io ci stavo più tornando. Ehi, allora, scusate, scusate, intanto batteria a me non me ne ha dato, mi era dovuta comparare io, ma non l'ho più fatta, apri a me. Quello è vero, però c'è il fatto che io gli ho mandato un generatore per i clienti e poi li compravo roba. Guarda che io ho senso i limiti, andare più per ufficiare, fare dei microfoni, c'è quasi ne ho comprato microfoni amplificati, da palmo, isu, vidaggio, sai che c'è vado dei microfoni della teoria che cosa, come si chiama? Non li ha più fatti arrivare, ma come si chiama? Non Fusaro, l'altro, Melchiori, quello lì ci aveva dei bei microfoni della Zodiac che riuscivano per forti amplificati con la batteria da 1,5 usciva a bomba. Sì, già ho capito. Ma vabbè, a me mi interessa di buccare una capsula dai nomi e se madama. La provi? Ti do quella cosa del DM1000, vediamo a te ti dovrebbe andare bene perché tu hai la voce grossa, sono del DM1000 non te la fa molto grossa, te la fa meglio alto, ti dovrebbe andare bene. Infatti, tanto ho visto che devi arrivare a dire giurare. Qualcuno che sta chiamando. Dove ti metti? Non si sa. Perché sei così basso nell'alvira. Io non lo so, dove lo metto, non si sa. Non è che uno ti piace di altri dubbi. troppi. Non li devi far girare, non prendere, riprendere, oppure se no ti rimpono la casa. Quindi intanto ho appagnato a uno io, grazie a me inteso. Io all'ora di pranzo uso uno, di sera ne uso un altro, e durante il fine settimana uso un altro ancora. Ma ho fatto così, a me piace usarli tutti. A me piace usarli uno solo. E vabbè, già, non ci abbiamo tutti questi sicuri. Lo so, infatti sto parlando dei miei, non di quelli degli altri. Io sto parlando dei miei. A me piace questo. Gli altri li uso solo che... non che non mi piacciono, è per carità. Li uso per... fare scaldare, ma per me questo qua è il massimo. Per ognuno la vede come la vede. Io la vedo che a me piacciono tutti gli apparecchi. E intanto io ne prendo uno e me la accendo e lo faccio andare. Il giorno che mi rompo le scatole qua ne metto uno solo, vedo questi dati, ne pongo giù, ma pongo questi giù io. Oh, Gianni, ma tu sei sempre a prendere, io sono un geologo come la cosa. Ma io per migliorare mi vendo, se sono fatto così, mi piace, però se mi devo migliorare, se per migliorare mi vendo, se ho fatto così. Ma non vendo mai a prezzi, capito, sbalorditi, vendo a prezzi giusti, anzi, a volte anche ho venuto a parecchi con lo stesso prezzo che gli ho pagato, nuovi di zecca per carità, perché non avevo una pecca. Diciamo che io sono un po' geloso, hai capito? Per quello che a me dava un apparecchio. Vabbè. Io invece no, io sono anche di buon cuore, se per dire anche un apparecchio che io tengo, se una persona lo merita, posso anche regalarlo, non mi metto in questi problemi. Buon cuore pure io. Guarda, dico la verità, dico la verità, se c'ho soldi in tasca, quando te lo compro, però il mio non te lo do. Così, me lo prendi nuovo, va bene, la prendi meno nuovo. Ma sai cosa sta cercando, ma nuovo non lo trovi, il mio. No, ma per dirti, se io voglio fare un regalo a una persona, per dire, se sono in grado di farlo, io prendo un prodotto di attacca, te lo comparecchio, però il mio non te lo do, perché è più forte di me, cavolo. Cavagata. So, stavo sbagliando, non so. Va bene, fa modo suo, io sono così con la macchina per la moto, non mi tocca nessuno. Guarda, per dare la macchina via deve essere una persona proprio fidata, migliorata, a Natalino che l'ho data di sicuro, l'ho data una volta a Salvedo perché cavolo, c'avevo la batteria che non era, diciamo, voleva ricaricata perché era troppo la ferma, no? Quindi per farla girare la cassa veglia con un po' io mi sono pagato, che restava tirata. E poi in macchina mia non penso di aver preso altra gente, perché se l'ha presa il meccanico per provarla, dopo che ha fatto i lavori, quello sì, però altra gente non penso che l'abbia preso. È così già. Mamma mia, io per le cose mie sono molto geloso, insomma. Però sono fatto così, prima di darti una cosa. Primi di possesse. Non so perché, cavolo. Sono fatto così, insomma. Un attimo. E avanti. Ok, fammi un passaggio. cambiando vela 1, cambio. Qual è il Michigan? Il Michigan è quest'altro, si sente di più. Vero Gianni? Aspetta, c'è un po' di provo, fallo. Uno, due, tre, attento, Gianni, Gianni, si va incontrando cambio. Ehi, ehi, sì, si sente di più. Adesso lo sento bene anch'io. Yeah. Twitter si muove bene, tutto quanto. Ma questo è il microfono, vi fa. Oh, ma intanto, adesso ti si sente, ma poco fa è in onda, proprio il titolato, non si capiva niente. Adesso stai uscendo. Beh, e l'ultimo, quello che ha messo tutto il tip, quello era il tip. E che comunque, mettilo un attimino a sentirlo. Sì, sì, sì. Luca. Finalmente ti sento. Sai cos'è che l'87 ha i fusi, i pomelli molto sensibili, e per quello magari era regolato in una certa maniera e si sono spostati. E quella parte bisogna anche della spostata rispetto a contatti che ho notato che Potenzio vede il maschio quando risposta. Thank you. chiama e sta di chissà cosa domani, a puttarla che dov'è? Non c'è problema, mi copi già. Eia. Ho detto non c'è problema. Così almeno ne abbiamo sistemato un arma. Cavarocci. Ma come te lo do fischio già? Cosa è? Prova, adesso c'è un problema, che io c'ho degli splatter, qui devo chiedere l'RFI, prova adesso a vedere come ti ascolta, se ti senti sempre in un momento libero, a vedere come ti ascolta anche di segnare. Guardate che sto 1, 2, 3, 4, hola. C'è perché così così via? Qualche filo attaccato c'era, io l'ho saltato così a occhio, ma non sapevo neanche cosa stavo portando via. Facciamo come si deve, c'è il dottor Pierpaolo che mette male, vedrai come esce. Vicino alla bocca, perché altrimenti non rende la modulazione, capisci? Quanti volte assorbe quello lì? trasformatore. Con il barattolo. Vai a perdere, ce ne sopra. E dove l'hai collegato? Ecco. Sta parata. Non ti danno mai gli amperi giusti. cattolica con falsi sforzi, ma suicidi. Thank you. stati ricordati, ma naturalmente la precipitazione, la scheda, ecco, tutto lì. Ah, beh, già va bene, cavolo. Io non male, intanto se abbiamo tempo da perdere, nel senso che non ci avete nulla da fare, voi domani sera lo facciamo, se lo accontentiamo lo facciamo tornare con le a casa. Ehi, piace di più, piace di più, la nostra LC è un buon microfono, se mettiamo un più amplificato, vedi che si brinca e siamo in radione. Magari quello lì è una cazzata, sarà qualche filo da saldare. Sicuramente non riscatti che fa. Anche ancora ci sei. Mi ha detto di essere sul microfono. Sicuramente facendo la rotta del tutto, la rotta del tutto così. Sicuramente quel filo che c'è attaccato, quello lì, se guardava lui la luce rossa quando il tic si è inserito, si ballava, perché sicuramente quel filo è quello che ne comanda l'apertura. Yeah. stato per quello, va bene, ok, ciao, buonanotte. Buonanotte, per qua, ciao. Buonanotte, via Paolo, buonanotte. Abbiamo sistemato il microfono, sta andando, cosa? E va alla grande. Contrario, capito? Infatti questo ce l'ha attaccato al vai, a quello che schiacci, capisci? È tutto, tutto unico. Lungo, Saranno 5 centimetri. Se provo a vedere se ce l'ho a casa, porto un paio. Domani quando vieni mi porto un paio a vedere se vanno bene. Cava cava, porta le luci, lo proviamo. Se non mi si fa in fretta, si mette la carcassa di un altro microfono, quello lì è buonanotte. Grazie, dai, io vado a Zomi, ma mi sa di casa pesa più di lo... di lo portate, che a roba. Non ce lo buttare, amici, se lo deve buttare. Aspetta, che i pezzi servono. Ecco, macchiata, questo deve essere il cialo, il microfono ce l'ha, mica, è bianco lì. A capo, ma no. Non lo so se ce l'ha, però sì, perché c'è bene. Hai capito, e poi ho visto che hanno saldato dei fidetti, lì hanno già fatto modifiche per il microfono. Hanno fatto delle modifiche, ecco perché c'è così. Perché non sarebbe uscito così. Ho cambiato la capsula, boh. Può darsi. Ma la capsula è buona. Quando esce bene, come stai uscendo, come stai facendo? Premi col dito dall'interno. Adesso, non uscendo da portatile. Stavo pensando che con quel microfono in mano aperto. Prima era aperto, stavo schiacciando, solo lo faccio ma deve essere ecco. Ma non che ci sia qualche compressore su quel microfono. Guarda, compresso. Compressore solico. Interno. Sempre questo fa. Compressore, cosa devi fare? Compressore praticamente per farti spingere di più, no? Ci vogliono più ampere, questo fa del tratto. Quanti fatti ti sta da adesso? Non puoi saperlo. Ma posso andare a vedere quanto io ti fa? Col quanto si guarda. Se tu non c'è il quanto non lo puoi guardare. Infatti quello non ce l'ho, non lo posso guardare. Ma poi dopo che avviciniamo il tuo quanto. Già si può far fare. Quando mi si accende la spia delle... quando tu lo accendi si accende, non si deve accendere il tigre. E l'avviti si accende quello di sopra. Questo qua del portatile sì. E TX e AVI. AVI sono stazionari, quando c'è stazionare TX con le trasmissioni. No, non mi si accendono qua. Non è portatile, no? Ciao, sono le batterie. No, non sei. E tu portatile come lo stesso da batteria? No, non l'ho diventato. Quello che ti hanno dato adesso, per intenderci. Quello che avevo comprato io, avevo 24, 25. Quello hai comprato per lui? 4 novembre. Ah, da fusata. E se troppo ti compri almeno da 10 ampere, cioè amici. Se l'ho pagato non fa te quello da 10 ampere. Sì, io ce l'hanno già, lo so, costano 4 euro, quello da 10 ampere. Un bianco, non l'hai visto? Mi è sempre un mobiletto. Io l'ho verniciato di nero proprio, l'ho fatto perfetto, sembra uscito dalla fabbrica nera. È bianco quello di due euro. Sì, perché io ho la stazione nera, figurati, allora, io il mobile dove c'ho gli apparecchi ce l'ho bianco, con le luci, praticamente fatto tipo un cassone, non so se tu hai presente, no, cassone messo sotto un altro mobile bianco, c'è tutte le luci blu, vero, gli apparecchi sono tutti neri, l'unica cosa che stava era quella della bianca, non ci stava a fare niente. Allora prendevo il coperchio, l'ho tolto, verniciato di nero opaco, fatto asciugare, l'ho impiantata, gli strumenti della 30G che facevano verde, a me fermai i nomi di azienda, tutti niente, vai. Beh, sì. quando non potevo fiarmi, bisogna farla. Ah, infatti, no, io le cose non le faccio mai chinate, non mi piace a me. Tutto lei lo fa. È fatto bene, non si vede una gocciolatura, una niente, tutto perfetto. Sì, già va bene così, già va bene. Preferisco un certo campo di felice, ma tutto da lontano e mi faccio il tocco leggero, leggero prima. Lascio asciugare quello con la famassa, dice una bocca, un buon bocca. Ho capito, e così si deve fare. Dice che deve fare il verdicciare, sai, ce l'ha giocata in una busta, dico ce l'ho già giocata, mamma mia, fate mai cagare. È vero, è vero. Ma io sono un bel mignolo, dice che è pericoloso. Beh, si credo, bisogna essere pigioni. E non si fa di bella cosa, non si fa di bella. E così i microfoni, tutte le cose che ho, non c'hanno mai un graffio, niente. Io li vendo come li compro, li vedo, ma non sono che perché io, se a palazzo li compro tutti quanti, una volta li compro con le insorse, li mettere a ridere, però per non finire il polvere li compro. Stanno già, si vede un poco arruinato, ma si può mettere a posto. Tutto li possiamo fare, anche per verniciarlo, durante. Si può un po'. Ma lo so, mi pare che tu malato, ma... Oh, non so se ne ho una decina di sbarato di felicere. Oh. Barato di spray, ma di quelli... spray, barato. Solo che ho notato che quando sposi con quel tipo di vernicieri ti lascia gli aloni, pochi di strano. Vabbè, stavo sì. Saloni praticamente dove li farà attacco di nuovo, si vede, sembra una più chiara la gamba scura, si sembra delle ombre. Già fa. Ma comunque già si fa bene, se lo duio, tranquillo, già facciamo tutto a posto. Dio mio, me l'avevi regalato. Dai bene, Alina. Cosa? Dai bene, Alina. Oh, gli ho cognato, me l'ha portato, capito, da Civitavecchia. Da su, lui modulava, perché? No, un amico mi modulava, capito, poi ci ha messo tutto. Ma lui sta a Civitavecchia, l'ho cognato. Positivo. Ragazzi. E quindi ce l'ha regalato, vabbè, perché? Meglio di aver speso su, se non andare ci portiamo la tenda, no? Beh, se l'antenna me la prende, sì, se ne siete me la porto un apparato nuovo e l'antenna una schifetta. Non è una schifetta, ce l'avevi abbastanza bene, non da tutte le parti, ma ti sta salvando la questa antenna. Sì, quello sì, non è schifetta nel senso che è schifo l'antenna, e bisogna mettere una buona antenna per uscire bene. Quello sì, sì. Se una mano una schicchia di fili bassi. Beh, certo che sì. Troppo grande che intende, sono troppo grande da arrivare. Per andare bene le forze così. Avaroci. Allora se volete dire di mettere su 12 elementi, 15 elementi. Beh, le direttive sono basse eccessive. Tu prova da... da via Gazzola dell'altra anno per andare a San Francesco. Dove c'è... lì dopo l'incrocio della rotonda lì, guarda lì e guarda quelle ancora. Chiappa, quella sono direttive, sono. Direttive ci sono. sono le viste. Gavaroci. Tanta casa di Natalia. Ma perché è Natalia lì? È vicino, là, è vicino, si passa da lì. Non sono andato a chiedere a Parigi. Cavallo. Comunque, quando le ciance, è così la ragione, è così. Domani ti facciamo andare tutto nuovo. Baracchino di Usso, a posto. No, ci vuole già. Che è un casino che avrei detto per due leggi. Dove ci va a fare la serva? E giù ci va a no, ma adesso. Vediamo una Non mettiamo a parlare del cicci per il microfono. Un po'. Cosa devi fare? Facciamo uscire un po' più forte. Quello poi ci sono più di 20 watt, lo sai. E ieri alimentazione dei muri. Ma se tu l'aumenti, se tu l'aumenti c'è più forte, c'è poco da fare. Però che gli abbassi il watt per l'alimentazione, se non basta, più che così non puoi fare. Ma se dico, se tu aumenti il watt, c'è più forte naturalmente. Ma devi aumentare da l'interno la parata. Sì, via. Già lo sappiamo noi. Ma voi dovete comprare l'alimentatore, visto che 3-5 ampere, voi dovete essere completamente così. Ma cosa c'è sì. Strumenti? No, no, proprio niente, c'ha i puli rosso e nero, sopra c'è una specie di vite e la cente spinta, no? E quindi proprio base in base. Una volta mi sono rimasto solo in moto per dire c'è di sigaro? Sì, se c'è una c'è di sigaro, pure io che attacca la c'è di sigaro, perché... Io vi dico, questo alimentatore qua che mi sono fatto levare il mio vedo, quello c'ha la tacca c'è di sigaro, pure, oltre a quelle realtà tacchi normali a banana, c'ha anche la tacca c'è di sigaro, c'ha, entra la tacca e va, entra alimentare due in una volta in corso. Ciao, ciao.